Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, buongiorno. Da domani l'Agenzia Nazionale per i Giovani organizza a Roma un corso di formazione internazionale sulla cittadinanza europea. L'obiettivo è quello di approfondire questo concetto di cittadinanza europea, troppo spesso forse lasciato scorrere così un po' per caso, e si vuole approfondire sia il significato, i valori che si accomunano a questo concetto, ma anche come si può tradurre in termini più concreti, per esempio con l'opportunità di lavoro per i giovani, ma anche per la sua rilevanza politica. Parte la campagna di Lila Onlus, prevenzione al femminile, si chiama così, donna prevenzione al femminile, e parliamo di prevenzione dell'HIV, dell'AIDS. Con noi Giusy Giupponi, presidente che Lila Como e membro del coordinamento nazionale. Buongiorno Giusy. Buongiorno. Allora, donna prevenzione al femminile è una campagna che parte proprio in questi giorni. Come è strutturata, l'obiettivo che vi ponete? Allora, la campagna parte il 28 di ottobre fino al 3 di novembre, con dono un SMS. Questa campagna è rivolta al femminile perché abbiamo visto sia dai dati sia dal nostro lavoro che svolgiamo regolarmente sul territorio nazionale che la donna è il soggetto più sensibile, più fragile ed è la persona che meno si protegge, meno si preoccupa di questa malattia che invece sfortunatamente colpisce indistintamente dal fatto di essere donna o uomo, dal fatto di essere omosessuale, eterosessuale, e quindi per noi è molto importante questa campagna perché le donne sono i principali attori nella vita anche sociale ed è giusto che la donna si protegga. Ecco, leggo che il progetto si struttura in linee telefoniche dedicate, sportelli di ascolto, sì, materiali, diffusione, cioè... Allora, noi abbiamo attivi sul territorio 16 sedi a livello nazionale, siamo attivi da 25 anni e abbiamo dei centralini telefonici chiamati Helpline dove forniamo informazioni a persone che pensano di aver corso rischio o anche un'attivazione della persona che scopre di essere sieropositiva e quindi con un percorso specifico sulla singola persona. Quindi siamo presenti con 15 sedi su tutto il nostro territorio nazionale, più la nostra sede nazionale. Ecco, e ancora, lo vogliamo dire anche per dare il nostro contributo, c'è anche un SMS solidale che sarà attivo fino al sabato prossimo, che è 3 novembre. Sì, da domenica 28 ottobre a sabato 3 novembre. E la nostra testimonial è Elena Di Cioccio, una giovane donna che si è prestata in modo fantastico a questa nostra iniziativa, e questa campagna per noi è molto importante perché anche la Lila è presente sul territorio nazionale da 25 anni e noi viviamo solo di donazioni perché non accettiamo contributi dalle aziende farmaceutiche, quindi per noi l'SMS solidale ci permette di mantenere attivo un servizio che abbiamo attivo da 25 anni, in questo dei centralini, ma che ci permette anche di consolidarlo e di renderlo anche più strutturato e di dare un servizio maggiore. Bene. È particolarmente importante, quindi ricordiamo ancora una volta questo SMS solidale che da oggi fino a sabato prossimo 3 novembre è possibile digitare per dare contributo. Qual è, Presidente, questo SMS? Allora, il numero è 45508, donando 2 euro con un SMS dai cellulari o 5 euro dalla telefonia fissa. Benissimo, grazie e buon lavoro al Presidente Lila Como. Grazie. Giusy Giupponi, buona giornata. Chiudiamo con una breve notizia ma interessante. Fondazione Cariplo domani a Milano, presentazione del libro La nuova occasione, città e valorizzazione delle risorse locali, un tema che riteniamo particolarmente importante perché fonte anche questo di opportunità di lavoro e di impresa. Ci saranno fra gli altri il sociologo Aldo Bonomi, presidente della La Terza Alessandro La Terza, e altri personaggi del mondo della cultura e del sociale. È tutto per oggi, vi ricordo di cliccare su Mi piace Ferribotto-Radio24 di Facebook. Grazie ad Anita Panizza e a Matteo Comes in regia. Buona giornata.